9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, sono tornato dopo una pausa, come avete sentito, con colleghi però eccezionali che mi hanno sostituito e io li ringrazio perché li avete amati come meritano e li avete abbracciati come sapete da tempo, perché appartengono al patrimonio storico di Radio 24 a titolo molto più lungo e giustificato del mio, come Milan e Deborah Rosciani. Mi hanno sostituito perché in queste settimane ho avuto un inconveniente di quelli che obbligano a ripensare molto, a mettere mano a un lavoro profondo su se stessi, su quello che fai, e come tutti gli imprevisti consentono poi di arricchirti, di capire chi è vicino, chi è lontano, quanto la tua testa che si forgiava sul tran tran quotidiano va rivista e quanto ciò che non ti aspettavi è invece fondamentale, prioritario, e lo sarà perché dovrò molto impegnarmi su me stesso e spero di poterlo fare insieme a voi, al pubblico che servo, e così in questi momenti in cui bisogna rimettere mano a se stessi al proprio programma di lavoro si scopre magari che i fiori migliori sono quelli che non guardavi, che non avevi mai visto e che le margherite sono per sempre. Questo è un po' la sintesi del motivo per cui non mi avete sentito in questi giorni, ma ripeto, eccezionalmente sostituito. Questa è una comunità di pubblico che vuole informazioni, approfondimenti e vuole in quest'Italia soprattutto gente che parli le cose chiamandole con il loro nome, che le definisca anche in maniera tagliente. Ecco, questo è ciò che Radio 24 si sforza di fare. Io sono l'ultima ruota di questo carro, ma fiero di esserne a bordo finché ne sarò capace. Oggi è San Desiderio e in questo desiderio ho cominciato la settimana con questo 23 maggio con un ospite particolare, perché è Mario Calabresi, è il direttore della Stampa e ha scritto un libro, Cosa tiene accese le stelle, per Mondadori, che secondo me vale la pena di essere letto da parte vostra. Le sue 130 pagine si divorano in fretta, perché è un libro che nasce dall'esperienza di quello che a mio giudizio è uno dei più giovani, non solo, ma soprattutto più promettenti per i decenni a venire, fidatevi, sarà così, ne sono sicuro, tra i direttori di organi di informazione italiano. Motivo per cui lo penso, non ho piaggerie, non collaboro con la Stampa, non avrò nessuna possibilità di collaborarvi, e tra l'altro da torinese sono sempre stato critico a volte verso il giornale della mia città, che per lunghi decenni chiamavamo la Busiarda. La sua Stampa, quella di Mario Calabresi, mi piace molto perché è nell'equilibrio che devono avere i moderni organi di informazione, in cui la pagina che conta per l'editore è la mezza pagina in basso, quella della pubblicità, per essere chiari, e non può che essere così, e sbagliano i giornalisti a non pensare che debba essere così, sbagliano i giornalisti a non pensare che il loro tempo di lavoro quotidiano debba modularsi diversamente, deve essere multimediale e cambiato il nostro mestiere. Noi dobbiamo consentire ai proprietari di fare bene i proprietari e di non essere gravati di nostri costi pazzeschi, ma in tutto questo lui riesce a fare un quotidiano che ha rimesso i costi in linea, che torna a guadagnare, che soprattutto mi piace perché nello spazio che tiranno, nella carta stampata che vuole continuare a battersi per fare utili, mi piace il taglio fresco, molta cosa internazionale rispetto alla media regionale italiana e dei tagli italiani internazionali che altrove non si trovano. Per fare questo, nella mia esperienza, sono più vecchio di lui, ahimè, e ho fatto meno di lui, è che bisogna avere un buon polso con i collaboratori, essere capaci di motivarli, bisogna essere un buon capitano. Essere buon capitani è una cosa che non sempre porta a vincere le guerre e le battaglie, ma porta a ricordarsi quando non ci sarai più che hai di fronte a te e in mezzo ai tuoi messo qualche cosa che prima di te non c'era. Secondo me Mario Calabresi ha questo. Perché oggi parliamo del libro Cosa tiene accese le stelle? Perché un direttore di quotidiano, nella sua smania ogni giorno di dare priorità alla gerarchia, alle notizie, in realtà si trova poi a dover comunicare con centinaia di migliaia di persone che gli scrivono, che gli mandano mail, e a interrogarsi sul passato di un archivio elettronico ormai molto lungo, come un grande giornale italiano, per capire se le domande a cui risponde in questo libro sono davvero fondate. Quali sono queste domande? Sono le domande molto semplice del dibattito pubblico italiano, trasmesso nelle teste di molti italiani. È vero che noi siamo avviati come Italia a un declino inesorabile, che le prospettive di crescita piatta deludono chiunque abbia voglia di farcela, abbia testa, merito, voglia di tirarsi sulle maniche, voglia di mettere tutti i propri risparmi faticatissimi in lavoro a tempo indeterminato in qualche cosa che consenta un domani migliore, come quello che furono capaci di costruire in pochi anni le generazioni di mio padre e di mia madre? È vero che siamo un paese in declino È vero che siamo un paese più violento di prima, che siamo un paese con meno valori rispetto a prima? Ecco, queste domande, che sono quelle che tutti i direttori hanno rivolto al direttore della Stampa, lui le tratta in una serie di incontri con personaggi in questo libro che me lo hanno fatto amare, perché la risposta è, voi direte, sei egocentrico pure tu? No, però la risposta è quella giusta, secondo me, è la risposta che un direttore di quotidiano ha il dovere, secondo me, di dare ai suoi lettori. La risposta è un ragionato, molto ragionato, molto ragionato no, con delle spiegazioni. Non è un no per l'ottimismo di maniera, non è un no per dire alla politica ah la politica vabbè, non c'entra niente. È un no che propone argomenti, numeri, personaggi di un'Italia che non è affatto vero che si è tramontata per sempre. Ecco, questa è la mia premessa, un po' più lunga del solito, ma perché ci tornavo a questi microfoni. Mario Colabresi con noi, io lo ringrazio e intanto buona giornata al direttore della Stampa. Buongiorno, grazie mille. Allora, no, niente ringraziamenti. Io ti propongo alcune tracce di lettura per consentirti di dire quali sono le tue risposte. Primo, con un personaggio, una grande attrice, Franca Valeri, tocchi un punto. Il tramonto borghese di un'Italia che non ha mai avuto una borghesia vera, forse per questo non ha mai avuto classi dirigenti all'altezza di questo nome, e dirà poi De Rita, un altro personaggio che evochi nel libro, anzi dirà un commentatore di De Rita, questo paese non è mai riuscito a diventare con una borghesia vera, per questo poi è tornato borghigiano, e per questo che manca la classe dirigente, al di là di destra, sinistra, il fascismo, un tempo, la fine della prima repubblica, il berlusconismo in 17 anni, manca la classe dirigente perché la borghesia, la grande scommessa di chi è stato antifascista in buona sostanza e di chi poi ha pensato che l'Italia moderata democristiana potesse partorire una classe dirigente come quella dei paesi occidentali è fallita. Tu sei d'accordo con questa idea? Beh, in parte sì, in parte c'è mancata e continua a mancarci una classe dirigente che abbia preso in mano il paese, che sia stata capace di soprattutto di dargli continuità anche nel cambio dei momenti storici, dei regimi politici. E la cosa che a me impressiona di più di questo periodo è il momento in cui si parla di declino, di crisi. Naturalmente non è che ci sia una crisi economica e un declino, non è una cosa che dal punto di vista dei numeri può essere sconfessata, non si può dire no, non è vero, va tutto bene. Il punto è in questo, la cosa che a me colpisce, che cos'è? È un sentimento di rinuncia diffuso, anche in quelle che dovrebbero potenzialmente essere le classi dirigenti, le quali si presentano con un'idea di che le cose siano irrimediabili, che non ce la si possa fare. Allora, questo è un venir meno alla responsabilità. E poi, nella domanda più generale che facevi prima, la cosa che a me colpisce è che nel momento in cui tu decidi che la partita non può essere giocata, in quel momento hai deciso che la partita è persa. È questa idea di non scendere neanche in campo. E finché ed è un'idea che come dire che ha percorso il paese più volte, che però adesso è venuta fuori in maniera potente. Le due cose mi hanno francamente infastidito di questo. Una, che nel momento in cui si dice no, ma è inutile giocare la partita, l'Italia è un paese fregato, che non ce la può più fare, spesso si truccano i dati, oppure semplicemente non si ha memoria del passato e quindi non si ricordano le cose. E per cui si dicono francamente delle cose che non stanno in piedi, perché non si riconosce tutto il cammino che è stato fatto. E poi possiamo anche magari dopo entrare nei dettagli. E questa è la prima cosa. E la seconda cosa, che io trovo la più grave di tutti, è ripetere ai giovani, soprattutto ai più giovani, dire a loro che loro non ce la potranno fare. Perché quando io sento dei genitori che dicono ai figli, o dei nonni, o degli insegnanti, ma purtroppo per voi un lavoro vero non ci sarà, per voi ci sarà solo precarietà, ma è inutile studiare, questo messaggio devastante per cui è inutile fare l'università, che l'università non serve a niente, che studiare non serve a niente. Io lo trovo una cosa gravissima, quando sento qualcuno che dice, e mi è capitato, ma ormai l'università non serve, meglio cercarsi subito un lavoro, e poi dicono, prendi uno di 25 anni, c'ha più lavoro chi non ha fatto l'università di chi l'ha fatta, ma questo è parlare in maniera completamente truccando i dati, perché non bisogna guardarlo a 25 anni, guardiamolo a 30 anni, 5 anni dopo che uno si è laureato. E allora scopriamo ancora oggi in questa Italia che chi ha studiato e chi si è laureato ha più lavoro e migliori stipendi e posti di maggiore responsabilità di chi non ha studiato. Naturalmente chi ha iniziato a cercare lavoro a 18 anni è chiaro che a 25 si spera che abbia trovato di più di chi invece magari sta uscendo dall'università, è uscito da un anno e mezzo, ma sul lungo periodo studiare è una cosa che paga, che aiuta. E invece questi messaggi devastanti che fanno sì che noi abbiamo visto negli ultimi 4 anni un calo degli iscritti all'università, era una cosa che non accadeva, perché per dare un numero, noi siamo un paese in cui nel 50 anni fa, nel 1961, i laureati erano l'1,3% della popolazione, oggi sono 7 volte di più. Allora, e sono cresciuti in tutti questi anni. Negli ultimi 4 anni hanno iniziato a calare nel momento in cui si è incominciato a dire che tanto studiare non serve a niente. Allora, un paese che vuole veramente spararsi nei piedi dice ai giovani che studiare non serve a niente. Allora, vediamo un pochino alcuni dei temi che sono trattati nel tuo libro, ai quali si riconduce questo stato d'animo del paese, un paese in cui la maggioranza oramai di coloro che tentano in qualche modo di arrabattarsi, di fare i conti con un reddito disponibile basso, soprattutto per chi non integra redditi da lavoro e qualifiche medie e basse nel settore privato, e che è tornata ai livelli di potere d'acquisto del 1999 nel 2010, non dimentichiamoci, questa è la realtà del nostro paese, che stenta a crescere con la politica che dice sì, ma noi cresciamo poco perché in realtà diamo anche meno risorse pubbliche nel ciclo, quindi insomma non ce la battiamo tanto male, e prende, si offende a chi dice, ai giornalisti che poi dicono guardate che in realtà non sarebbe così difficile crescere di più. Ci sono tanti aspetti nel tuo libro, ce n'è uno che mi ha colpito, adesso te li elenco, vedi un po' tu poi come trattare. Primo, che a volte ci sono personaggi nella vita italiana insospettabili, tu usi Jovanotti per esempio, Lorenzo Cherubini, che ti è evidentemente caro anche per questioni generazionali, io sono più vecchio quindi cioè altrimenti, ma insomma usi Jovanotti per farci capire come a volte persone che insospettabilmente siamo abituati come giornalisti, come osservatori della vita italiana a considerare leggeri, sono stati capaci invece di capire che alla fine, al di là del successo che si è avuto in un pezzo di vita, il successo è collegato per tutti, a prescindere anche e soprattutto per chi non l'ha avuto, dal fatto che bisogna avere testa dura, studiare molto, bisogna proporre e riproporre in maniera seriale ciò che bisognerà proporre al pubblico per renderlo soddisfatto, si tratti di un'azienda o di uno spettacolo. Usi Jovanotti per questo e mi hai fatto molto riflettere sul fatto che anche chi è di successo è così. Primo. Secondo, non è vero che non vale più nel nostro paese la regola che vale tutto il mondo, cioè che il mondo è di chi ha fame e alla fine ce la fa non tutti quelli che sbattono la testa contro il muro e si tirano sulle maniche, ma molti di coloro che ci provano ce la fanno, quindi bisogna continuare a provarci. Tu usi una ragazza marocchina di 13 anni che viene mandata dalla Liguria per le celebrazioni al Presidente della Repubblica, perché è lei che ha la media più elevata, la marocchina che in terza media studia tutto il pomeriggio, e lei è convinta che il mondo sarà di chi si tira sulle maniche, di chi ha la testa dura e che non si guarderà indietro. Quindi da Jovanotti alla marocchina, per una domanda di fondo, che è quella: se avesse ragione tua nonna che dice che poi l'Italia è cambiata una sera che gli è entrata in casa nel 1955 la lavatrice e lei ha smesso di essere, se lo dico in due parole, non riguardava tua nonna ma riguardava le donne italiane, schiava del fatto che bisognava rigovernare anche tutti i panni e lavare eccetera, e la lavatrice cambiava la vita e lei poteva tornare a leggere, e alla fine invece uno scienziato che dice no, la realtà vera è che ciò che ha cambiato il Novecento più che qualunque altro pezzo di storia prima è la Luna, e noi dovremmo andare su Marte. Allora ti ho messo queste quattro coordinata per consentirci di riflettere insieme. Tu perché sei convinto che in definitiva, allora, ha ragione la ragazza marocchina insieme ai Jovanotti? Io voglio dire questo, allora, perché uno bisogna anche essere attenti a non essere, ed è una mia preoccupazione, come dire, insultanti verso chi ci prova e ci riprova e non riesce a farcela, perché a me colpisce la quantità di curriculum che mi arriva oggi ogni giorno sulla mail, e sono curriculum di gente qualificata, gente che ha studiato le lingue, gente che ha fatto un master e che è disoccupata, che magari è disoccupata da 35 anni, e mi colpiva un cartello che c'era alla Puerta del Sol a Madrid, dove c'è questa protesta giovanile, c'era un, un cartello che diceva: siamo la generazione più preparata e la meno valorizzata. Perché è vero che se uno guarda tanti curricula, tanta preparazione di chi sta fuori, io parlo dei giornali per esempio, di chi sta fuori dai giornali, e la preparazione di altri che stanno dentro, spesso non c'è paragone, non c'è partita. Perché questo è un altro discorso. Nel senso che è meglio quella di chi sta fuori di quella di chi sta dentro. E certo, capita anche questo, e questo però perché siamo un mercato totalmente bloccato, immobile, che ha... Giornalisti però, quelli che fanno associazionismo, questo è un mio giudizio, non voglio complicare la vita al direttore, sono dei fottuti conservatori, cioè non danno una mano a cambiare le regole, non lo dico solo per i giovani che stanno fuori, anche per preservare la stessa azienda editoriale. Tu fai un paragone di un giornale americano, il Rocky Mountain, chiuso mentre tu prendevi in mano la stampa, e il risultati alla mano, ti poni il problema: ma quei proprietari americani hanno fatto proprio bene a dissipare il problema? No. Che da noi, ecco, no, non hanno fatto bene, ma da noi c'è una resistenza organizzata dei giornalisti che è niente male. Sì, questo è vero. Io devo dirti che qui dove sono io sono riuscito a fare tanti cambiamenti, e devo dire grazie alla redazione che è stata capace di cambiare. Però più il problema generale poi del paese è che c'è da una parte, come dire, un mondo ipergarantito da una parte e un mondo selvaggio, esatto, e iperprecario, esatto, dall'altra, due mondi in cui sembra di abitare in due paesi diversi. Comunque, torniamo al... Allora, è pur sempre vero questo, che non è detto che tutti quelli che anche caparbiamente ci provano, studiano, ce la facciano, perché sarebbe, come dire, un insulto dire: no, se ci provi ce la fai, questo è certo, a chi invece ci prova e non ce l'ha fatta. Però c'è un dato certo invece, che è il contrario, che se non ci provi neanche è sicuro che non ce la farai, e questo è il punto di partenza, quindi, che mi fa dire, sembrerà banale, che a quel punto conviene provarci per aumentare le possibilità. Se uno non neanche ci tenta, neanche ci si mette, neanche stringe i denti, allora a quel punto è certo che in un mondo come questo resterà a piedi. E tu hai messo dentro il tema della fame, perché io penso che il tema di avere fame sia fondamentale. Mi ha colpito questa ragazza marocchina, si chiama Amal, è arrivata in Liguria a Taggia quando aveva 3 anni, il padre ha fatto il muratore, il camionista, adesso lavora, fa il cuoco in una pizzeria. E questa ragazzina, che da 10 anni nello stesso complesso scolastico dove ha fatto le prima l'asilo, poi le elementari, adesso le medie, è risultata la più brava in assoluto, ha un solo 9 e tutti gli altri sono 10. E quando la Liguria doveva mandare una rappresentante a Roma davanti al Presidente della Repubblica in Parlamento a rappresentare la regione, hanno detto la migliore studentessa, e il preside di questa scuola, hanno guardato tutte le scuole, il preside di questa scuola di Taggia, di questo istituto, ha visto che questa bambina aveva, e mi ha spiegato: io non ho fatto né da una parte una discriminazione sul fatto che questa bambina non era cittadina italiana, pur essendo la più brava della scuola, e dall'altra parte non ho fatto neanche del buonismo, mi ha detto, del fatto di fare qualcosa di originale, mandare una bambina marocchina. Semplicemente nel mio discorso di inizio anno, ogni anno dico: vogliamo premiare il merito, datevi da fare, e allora a quel punto ho detto: dobbiamo essere conseguenti, premiare il merito, e abbiamo mandato questa bambina. Io ho parlato con lei, con i suoi genitori. Questa bambina ha fame, esatto, studia in salotto perché non ha, e dorme nel divano letto perché non ha una camera da letto. Quando i fratellini più piccoli giocano in salotto, lei si mette a studiare e si chiude dentro il bagno. Però sta e fino a mezzanotte legge prima i libri di scuola, e poi mi diceva, 13 anni, mi diceva, stava leggendo L'eleganza del Rich della Barbery, e mi ha detto: ah, però adesso lo voglio finire, perché poi alla fine mi piace di più l'inizio dell'Ottocento inglese, la Radcliffe, Jane Austen. Ti interrompo perché c'è la pubblicità. Anche a me questa ragazzina marocchina che hai descritto mi ha colpito molto, perché mi ha fatto tornare quando ero ragazzino nel quartiere operaio di Torino, e cui eravamo più o meno nelle stesse condizioni, perché poi la storia cambia, ma gli immigrati di oggi sono i meridionali di ieri a Torino, di questo sono assolutamente testimoni. In queste parole della ragazza di Amal, te leggo testualmente alla fine del capitolo che gli hai dedicato, Amal dice: la vita è questione di volontà, se uno non vuole non fa. Io non voglio proprio accontentarmi, voglio poter scegliere, voglio provare a puntare in alto, voglio conquistarmi la mia libertà. Il messaggio che do ai miei studenti a volte è esattamente questo: bisogna crederci. Non è vero per quanto amara sia la politica e somara la classe dirigente, che questo paese non rappresenti ancora per molti da fuori l'America che noi crediamo non sia più e che abbiamo visto sempre solo in America. Non è così. Le parole di Amal vanno applicate alla vita italiana. Ora pubblicità, poi torniamo con Mario Calabresi per arrivare poi alla parte più graffiante anche della, un po' della politica, di che cosa blocca questa crescita, di che cosa diffonde questa idea di italiani, che questo sia un paese perduto. Pubblicità. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando di Cosa tiene accese le stelle, edito per Mondadori, autore Mario Calabresi, il direttore della Stampa che è con noi. Nel libro trovate alcuni altri testimoni, da Umberto Veronesi a chirurghi, pediatri, che enumerano poi alcuni degli elementi che anche a me colpisce sempre agli italiani siano poco presenti quando finiscono per diventare nostalgici di una mitica età dell'oro che sarebbe alle nostre spalle, dimenticando che per esempio fino a pochi decenni fa, pochissimi decenni fa, di cancro per i bambini, di leucemia per i bambini, ma di cancro in generale si moriva magari all'80%, 85%, e come tutto sia cambiato nel giro di 25-30 anni da questo punto di vista, di come tutto sia cambiato per la mortalità infantile, di come tutto sia cambiato per la qualità media della vita, cioè in realtà innegabilmente i parametri dicono che noi viviamo meglio, che non abbiamo mai vissuto così bene. Questo non significa però che non ci sia un paese alle prese con problemi di ascensore sociale che non funziona, di costi e di rigidità del mercato del lavoro buttato tutto sulle spalle dei giovani e dei precari, di energie che non vengono utilizzate. Mario Calabresi ci ha detto, quando mi arrivano i curriculum, molte volte sono sempre più colpito da quanta preparazione, quanta formazione il capitale umano non troverà sfogo e utilizzo per aggiungere valore, far crescere le imprese. C'è nel libro un esempio incredibile di un ingegnere del Politecnico di Torino che riesce a mettere in piedi insieme a un collega professore americano un'azienda tecnologica negli Stati Uniti e poi chiama in questa, con la trentina di consoci e dipendenti in questa sua impresa di successo che poi riescono a piazzare per diverse decine di milioni di dollari. Un grande gruppo chiama un'altra quindicina di ingegneri italiani del Politecnico e si fa il conto della spesa e dice che l'Italia ha investito nella formazione di questi quindicina di ingegneri più o meno 700.000 euro a testa allo Stato italiano, sono le spese dalle scuole elementari, medie, liceo, università. E quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che il bilancio generale è stato che 10 milioni di euro capitale investito dallo Stato, dal contribuente italiano, per formare questi meravigliosi ingegneri, e però questi meravigliosi ingegneri noi non abbiamo consentito loro di tradurre in un'impresa di successo qua in Italia, abbiamo deciso quindi di regalarli alla crescita americana. Quindi un paese con molti paradossi, con una classe dirigente che su questo dice, ma il cambio di marcia non lo fa mai, e poi alla fine ci ritroviamo regolarmente con le campagne elettorali a Milano, la trincea più avanzata della crescita, in cui il tema dominante del secondo turno diventa: vi abbuono le multe se votate per me, il bille vuole copass. E lo dico senza alcuna remora, non mi interessa fare distinzioni in questo momento, mi interessa che questo non può essere il modo in cui una classe dirigente seria chiede a Milano, per quello che pesa nell'economia, nella realtà italiana, di impostare le sue scelte. Quindi queste sono robe da caricatura italiana: vi levo le multe e vi levo l'accesso qualificato al centro. Ecco, questo lo dico io perché mi indigna il livello della classe dirigente italiana. Mi chiedo come l'informazione possa poi ai lettori o agli ascoltatori evocare l'idea che dal basso si può cambiare qualche cosa. Ti chiedo, direttore della Stampa, dal basso che cosa un direttore di un giornale può dire ai suoi lettori: potete cambiare in Italia oggi? Beh, innanzitutto gli dovrebbe dare un po' di memoria storica. Perché io penso questo, avere memoria non vuol dire guardare indietro, perché noi siamo un paese che anzi ha strabisogno di guardare avanti, un paese in cui la politica, lo vediamo, vive ormai dalla giornata, nel senso vero della giornata, cioè della trovata quotidiana e giornaliera per arrivare al telegiornale e ai giornali della mattina dopo, al massimo guarda una settimana. Nessuno osa neppure guardare a 2 anni, a un percorso di fine legislatura, non si sente mai un dibattito che dice cosa faremo nei prossimi 2 anni. E nessuno è capace di alzare la testa e di immaginare costruzioni e investimenti per un paese lontano del futuro. Allora che cosa c'entra il passato? No, c'entra perché secondo me se uno non ha la capacità di avere memoria, cioè quindi una di contestualizzare il nostro presente e di avere il senso di da dove veniamo, allora non è capace neanche di avere poi una vista lunga e di immaginare il futuro. Io penso che da questo punto di vista i giornali farebbero bene, dovrebbero fare un lavoro maggiore nello spiegare, nel dare i contesti, nell'evitare che ci siano solo ed esclusivamente momenti emozionali in cui l'opinione pubblica sbanda da una parte e dall'altra. Nel libro una cosa che racconto, per esempio, che è un fatto, è: vi ricordate, lo scorso anno ci sono stati una serie di incidenti negli ospedali, nelle maternità degli ospedali, dei bambini che sono nati con problemi, un bambino che è morto, una madre che ha perso la vita di parto, e improvvisamente in Italia era scoppiata una psicosi per cui sembrava che nascere in Italia fosse diventata una cosa pericolosissima. La gente, le mamme avevano paura di andare a partorire. Ecco, basta andare a vedere i dati e scoprire che la rivista Lancet, che è una delle riviste scientifiche mediche più famose del mondo e più autorevoli, dice che se c'è il miglior paese dove nascere al mondo è l'Italia. Mettere in fila i dati ci dimostra che siamo il paese in Europa e nel mondo con la mortalità infantile più bassa, la mortalità alla nascita e la mortalità nel primo anno di vita. Quindi diciamo, i giornalisti su questo hanno una pesante responsabilità, l'effetto pitbull, perché come lo chiami tu. Non possiamo inseguire soltanto la cosa a chi la spara più grossa e più emozionante. Bisogna avere un po' di serietà e dire: attenzione, sono dei casi, si sono messi in fila tre casi sfortunati, ma la nostra situazione è la situazione di un buon servizio sanitario sulle nascite, di cui abbiamo di che essere contenti. Allora, come questo, allora un lavoro uguale va fatto sulle tasse, va fatto sull'università. Prima parlavo dell'università. Nel momento in cui si dice calano gli iscritti all'università, bisogna pubblicare delle ricerche e far vedere, dimostrare come invece chi studia 5-10 anni dopo la laurea rispetto a chi non ha studiato ha maggiori possibilità di impiego, è riuscito a trovare più lavoro, c'è meno disoccupazione, guadagna di più, ha posti migliori. Allora questo bisogna spiegare, oppure bisogna prendere i numeri, che si parli di tasse, che si parli del mondo del lavoro. Un'altra cosa fondamentale, per esempio, dimostrare, perché queste cose si dimostrano, negli altri paesi si fa e si studia, dimostrare che investire nella ricerca, nella formazione, nella cultura, non sono soldi buttati, che ci sono delle relazioni tra la crescita del PIL e gli investimenti sulla ricerca. Questo se no non si spiegherebbe, perché mentre si sono fatti i tagli in Cina, in Germania, in Francia o negli Stati Uniti, si sono aumentate però le spese di investimento sui giovani, appunto nella formazione, nella scuola e nella ricerca. Perché? Perché si sa che questo costruisce il PIL del futuro. Da noi questi discorsi sono totalmente assenti e secondo me anche responsabilità dei giornali, dei media di informazione, che dovrebbero farli di più. Infatti io per primo, che per quella mia formazione, la mia cultura, per quello che dico, penso dello Stato, del meno tasse, in teoria dovrei essere pregiudizievolmente a favore di uno schieramento per l'altro, sono arrivato a dover dire ai miei ascoltatori, numeri alla mano, attenti, perché chi vi promette dopo per tanti anni di abbassarvi tasse e spesa e non lo ha fatto, diventa il peggior nemico della realizzabilità stessa di questa nostra idea, e quindi va cambiato e mandato a casa, numeri alla mano, non perché sia meglio chi c'è dall'altra parte, che queste cose probabilmente non le vuole per come si configura gli elettori. Oppure un altro esempio: come si può ad accettare che a dire che ci sia un eccesso di controlli fiscali oppressivi che fanno chiudere le imprese, basta con le ganasce, sia chi da anni è il ministro a cui rispondono le agenzie delle entrate, Equitalia, e che ha anzi deliberatamente voluto che questa fosse la linea seguita, in base alla quale risultati alla mano di quante aziende vengono spolpate, si fa oggi carriera nelle articolazioni territoriali dell'amministrazione tributaria del nostro paese. È possibile che su questo tutti debbano essere frenati, riconoscendo un merito a questo stesso ministro, soprattutto Giulio Tremonti, di aver frenato il saldo dei deficit pubblici e quindi averci evitato di finire nella lista dei paesi diffidati degli eurodebiti? No, si può fare ed è giusto fare l'una e l'altra cosa, contemporaneamente riconoscere di questo merito contro gli suoi stessi colleghi di maggioranza e governo, ma contemporaneamente, numeri alla mano, inequivocabilmente metterlo con le spalle al muro, perché è lui il responsabile politico di queste procedure che indignano giustamente migliaia di imprenditori, di lavoratori autonomi, eccetera eccetera, e finalmente, come avviene in alcune regioni italiane, mentre non c'erano, portato in Sardegna a sfilare migliaia di persone dicendo basta con queste procedure. Potrei procedere molto a lungo. Io credo molto in quello che Mario Calabresi vi ha detto: il compito dell'informazione è fare questo, esporsi. Io non lo faccio per appartenenza pregiudiziale di qua e di là, ma è vero che nella maggioranza dei paesi, come ci ha ricordato Calabresi, anche di fronte alla crisi si è scelto, mentre noi abbiamo la logica dei tagli lineari, perché così nessuno protesta. È una stupidaggine. Un paese come il nostro, che ha il 52% di spesa pubblica, deve esattamente riallocare molto la spesa che c'è, sia per contrarla nel suo ammontare complessivo, sia perché bisogna far fare allo Stato ciò che non fa e deve fare su alcune questioni essenziali, e elevarlo esattamente da dove e dove non dovrebbe essere. E i giornali dovrebbero servire tutti i giorni, come le trasmissioni radiotelevisive, a dire agli ascoltatori e ai lettori qua e qua sì e qua e qua no, non perché ve lo diciamo noi, ma perché andiamo a vedere la realtà comparata degli altri paesi. Ecco, a questo serve la buona informazione. Ma una classe dirigente che si riserva il diritto di dire votatemi perché vi levo le multe è una caricatura, è una caricatura. Ora abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale. Eccoci, una risposta che chiedo al direttore della stampa, al nostro ascoltatore che chiama da Roma, si chiama Enzo. Prego Enzo. Buongiorno. Prego Enzo. Allora io volevo dire questo, noi quando è che eravamo ragazzi eravamo precari nel DNA, ma la parola non esisteva. Ma lei più o meno a che generazione appartiene? Quanti anni ha? Ho 61 anni. Ah. Avrei detto molto di meno, ma si vede che sto invecchiando molto anch'io, e quindi attribuisco gioventù a chi ce l'ha alle spalle, come nel mio caso. Però prego, dica. Però la parola non esisteva, quindi non potevamo essere precari, dovevamo fare qualunque lavoro per crearci un futuro. Oggi invece i ragazzi crescono senza interessi e senza stimoli. Questo è il danno più grosso che i genitori hanno fatto. La società ha contribuito, perché io dico da anni che noi siamo una società decadente. Ho capito, però lei dice una buona parte di responsabilità è ciò che noi abbiamo fatto dei nostri figli, però i nostri figli sono loro che non hanno voglia di credere che il mondo è di chi ha fame. Mario Calabrese, nei giovani che conosci e incontri tu, quelli che ti scrivono o quelli che vedi all'università, ti riconosci? Allora, io devo dire questo, due cose. Da una parte che il materiale umano dei ragazzi di oggi non è vero che sia peggiore, anzi, io trovo veramente dei ragazzi in cui trovo intelligenza, passione e molta sensibilità, e ne incontro tanti nelle scuole, perché vado spesso nelle scuole a parlare di libri, di giornali, e mi colpiscono sempre. E trovo una cosa, trovo che se devo mettere qualcuno un po' più sul banco degli imputati, io metto i genitori che hanno paura che i figli facciano fatica, hanno paura che i figli soffrano. Racconto una storiella brevissima, per me illuminante. Un amico mi ha raccontato che il figlio ha in classe un ragazzino cinese, e sono, non, in questo momento non mi ricordo più se sono al primo anno delle superiori o sono in terza media. Ha un ragazzino cinese in classe, e questo ragazzino qualche volta la mattina ha sonno, e allora l'insegnante gli ha chiesto perché hai sonno, e lui dice ma no, anche ieri sera sono stato in tintoria con i miei genitori, mi hanno fatto studiare fino a mezzanotte. A questo punto grande allarme in classe, ma che cosa succede, dei genitori che fanno studiare il figlio fino a mezzanotte e poi ha sonno? Vengono convocati, il padre viene convocato dagli insegnanti, che gli chiedono conto del perché, dice ma come mai suo figlio, ma fino a che ora lo fate studiare, ma guardi, ma sono tutti preoccupati, ma dovete farlo riposare, farlo giocare. Il padre risponde, io con un italiano affaticato, io sono venuto dalla campagna cinese, e da bambino mi alzavo all'alba con i miei genitori e andavo nel campo. Sono riuscito a venire in Italia, sono immigrato qui e con mia moglie abbiamo una tintoria. Andiamo ancora adesso all'alba in tintoria. Mio figlio si alza con comodo, va a scuola, torna a casa, mangia, si mette sul divano e guarda la televisione. Arriva verso le 3:30 in tintoria, si mette lì, io gli ho preso una scrivania nel retro della tintoria, si mette lì con i suoi libri, c'ha anche il computer, e studia più o meno fin verso le 7, quando ha finito i compiti, le 7, le 8. Poi si guarda un po' di televisione, un po' di computer, e dopo cena si mette ancora un po', io gli dico, sei qui, aspetti che torniamo a casa tutti insieme, ti metti e leggi e studi. Dice, non vedo dov'è, c'ha anche la Coca-Cola, non vedo quale sia il suo problema, è un privilegiato, io stavo tutto il giorno nel campo, lui va a scuola, legge, studia, sta seduto, mangia, guarda il computer, guarda la televisione, dov'è il problema? Però per noi un bambino che studia, un ragazzino di 14-15 anni, che lo si fa studiare al pomeriggio e magari anche la sera, è diventato qualche cosa che allarma. Com'è possibile, poverino, esatto. Non farà mica troppa fatica. Esatto, e questo lo dice molto della generazione, diciamo, non la tua ma quella precedente. Una parte di questo libro dà anche una risposta, perché io spesso vedo che molti da fuori dicono: ah, Mario Calabresi, certo, Mario Calabresi, ma intanto lui è un privilegiato. Ecco, allora leggete anche questo libro per capire come non sia stato affatto privilegiato, non tanto per essere vittima, commissario Calabresi, figlio di una grande vittima di terrorismo, figlio di una madre, la signora Gemma, che ha seguito le cronache come me di quegli anni, ha imparato a rispettare per gli valori altissimi che ha saputo trasmettergli. No, ma dovete leggerlo perché si capisce la tigna che ci ha messo uno che anche lui per primo andava a scuola all'università e non aveva sbocco perché voleva fare giornalista e non ci riusciva. E allora la descrizione di questo e di come si riesca poi a diventare direttore da giovani avendo praticato l'arte del sbattere la testa contro il muro, voi direte: sì, quando uno è arrivato alla stampa è facile raccontarlo, ma il problema è che serve a capire che bisogna continuare a farlo, perché talvolta si diventa persino direttore della stampa facendolo. Allora, mentre questo è il mantra da ripetere, però dal basso, come si fa a spiegare alla gente che deve avere fiducia con questa classe dirigente? Questo torno a ripetertelo, perché la gente dice: sì, ma noi qui non possiamo cambiare, dobbiamo fare gli indignati nelle piazze come in Spagna? Sì, ma io ti dico questo, ma che cosa facciamo? Diciamo così, allora prendiamo che anche domani mattina prendiamo questa classe dirigente e la buttiamo via e se ne va via tutta. E ci siamo liberati di questa classe dirigente. Detto questo, i problemi nostri non è che li abbiamo buttati via, i problemi strutturali del paese. Allora io penso che intanto ogni giorno uno provi a mettere in campo il suo pezzo di società, il suo pezzo di vita, a provare il suo spicchio, perché poi se uno va in giro per il paese, sul territorio, trova un sacco di energia che di ogni tipo, del volontariato, degli industriali, dell'associazionismo, degli insegnanti, ne trova un sacco di energia, e di energia che continua a fare cose. Allora su quello bisogna scommettere. E ognuno deve fare il suo pezzo, non è che può aspettare, perché non è che possiamo dire quelli a cui non va bene Berlusconi dicono: beh, un giorno se ne andrà Berlusconi, cosa fai? Aspetti che se ne vada Berlusconi per poi incominciare a fare qualcosa per il paese, oppure aspetti che arrivi finalmente Berlusconi tagli le tasse come ha promesso e allora da quel momento incominciare cioè qualunque sia la tua idea, non puoi stare seduto ad aspettare che arrivi un giorno in cui succede qualche cosa, ma fallo succedere tu nel tuo piccolo quel qualche cosa stamattina, domani mattina. Ecco, provaci adesso. E questo è il secondo grande messaggio, oltre a provarci, studiare eccetera eccetera, e a non abbandonare l'idea che il mondo di chi ha fame, perché così e sarà così anche l'Italia, che oggi è l'America agli occhi di molti, è l'America, incredibile a dirsi, per quanto non siamo capaci di vederla. Secondo messaggio, quello di tirarsi sulle maniche ciascuno nel suo, essere rigorosi, intransigenti e provare a cambiare quello che ciascuno può dare da padre, da genitore, da figlio, nel proprio ambito. Questa è la rivoluzione dal basso. Io credo molto al fatto che la storia di direttori come Mario Calabresi insegna questo, e mi piace molto questo libro. Torno a leggere nel titolo: Cosa tiene accese le stelle, Mondadori. Questi sono i valori di cui ha bisogno l'Italia. Non è affatto vero che la generazione mio padre e mia madre, che in 15 anni, dal 46 al 61, seppe fare a questo paese, senza capitale umano, senza capitale finanziario, più 260% del PIL pro capite in 15 anni, non è affatto vero che questo paese non ha in sé la forza per tornare a farlo. Seguiamo queste due regolette, secondo me è più facile avvicinarsi, e dopodiché sarà anche più facile ridurre la classe dirigente a temi più seri e a scelte più serie che l'egocentrismo che vediamo da 17 anni a questa parte, e l'abbiamo visto anche però nella fine della Prima Repubblica, non dimentichiamo. Grazie a Mario Calabresi, e arrivederci a questi microfoni, e l'appuntamento con voi torna a essere a domani. Intanto linea al Giornale Radio, grazie. 9 in punto.